Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro primo, versi 313-568. L'ira di Giove per l'infamia del genere umano ha sommerso il mondo in un diluvio. La Focide, fertile terra finché fu terra, allora però ridotta a braccio di mare, a una improvvisa campagna d'acqua, separa la Beozia dalle falde dell'Eta. Ivi un monte scosceso con due cime punta le stelle, sovrastando le nubi di tutta la vetta. Parnaso si chiama. Quando tal Deucalione, con la sua compagna di letto, vi attraccò su un piccolo legno, tutto intorno non era che mare, supplici si prostrarono alle ninfe Corice, agli dei dei monti, a Temi Fatidica, che all'epoca vaticinava. Non si era mai dato al mondo un uomo più buono e più giusto di lui, mai data una donna più timorata di lei. E Giove, visto il creato stagnare in piatta laguna e sopravvivere un uomo solo di tante migliaia di donne, sopravviverne una, l'uno e l'altra innocenti, entrambi devoti agli dèi, strappa le nuvole, scaccia gli uragani con tramontana e torna a svelare la terra al cielo, il cielo alla terra. Recede l'ira del mare e il re degli oceani, deposto il tridente, liscia le acque e convoca dagli abissi l'azzurro tritone, che affiora le spalle incrostate da un manto di conchiglie, e gli comanda di dar fiato al suo corno per segnalare alle onde del mare e dai fiumi che è ora di ritirarsi. Mette mano quello alla buccina ritorta che si svasa a spirale dall'imboccatura, alla buccina che se le soffi dentro in mezzo all'oceano, da levante a ponente, invade tutte le spiagge di musica. La bocca del dio, sgocciolata dalla barba zuppa, la tocca appena, e quella ha appena dato l'ordine di ritirata che tutte le onde e della terra e del mare la ascoltano, e tutte, una volta ascoltata, si rimettono in riga. Il mare ritrova le sponde, gli alvei convogliano la piena dei fiumi, i livelli si abbassano, rivedi spuntare colline. La terra riaffiora, più l'acqua scende, più sale l'asciutto, e dopo tantissimo tempo i boschi rimettono a nudo le cime degli alberi e il fango rimasto incollato alle foglie. Il mondo è tornato mondo, vedendolo vuoto, vedendo desolatissime terre arrese a un profondo silenzio. Singhiozzando così, Deucalione parla con Pirra. Sorella mia, moglie mia, tu, sola donna superstite, cui da sempre mi lega l'aver due fratelli per padri, e poi il letto comune e ancora i pericoli corsi insieme, tu guarda, da oriente a occidente, di tutta la popolazione del mondo, siamo rimasti noi due. Il resto se l'è preso il mare. E ancora non ci è consentito di contar su quel tanto di vita che ci avanza. Mi terrorizza ancora l'idea delle nuvole. Che ne sarebbe di te se senza di me, poverina, fossi stata strappata alla morte? Come potresti da sola vincere tante paure, consolarti di tanto dolore? Quanto a me, se il mare ti avesse inghiottito, credimi, cara, ti sarei venuto dietro, avrebbe inghiottito anche me. Ah, potessi ripopolare il mondo, seguendo l'esempio di mio padre, rianimare il fango con le mie mani. Ormai di mortali non siamo rimasti che noi, si è deciso così, lassù, due soli esemplari del genere umano. Diceva e piangevano. Allora decidono di invocare i celesti e di interpellare per chiedergli aiuto l'oracolo. Senza indugio si avviano insieme al corso del fiume Cefiso, non limpido ancora, ma già reimmesso nell'alveo di sempre. Attinta l'acqua per berne e per irrorarsene capo e vesti, volgono i passi al santuario di Temi, la dea, i frontoni del quale scoloravano sotto uno strato di squallido muschio. Gli altari erano lì senza un fuoco. Raggiunti i gradini del tempio, si prostrano faccia a terra, tremando stampano baci sopra la pietra gelata e dicono: «Se le preghiere dei giusti riescono a far breccia nel cuore dei numi e a stemperarne la collera, di Temi, come facciamo a risarcire la perdita della nostra specie? Soccorri, dolcissima, il mondo sommerso». La dea, toccata, emette l'oracolo: «Uscite dal tempio, velatevi il capo, slacciate la cintura alle vesti, le ossa della gran madre gettatevi dietro le spalle». Lo stupore li ammutolisce, è la voce di Pirra che rompe il silenzio, non vuole obbedire agli ordini della dea, le chiede perdono timidamente, ma teme di offendere l'ombra di sua madre sparpagliandone le ossa. E i due non fan che ripetersi le enigmatiche, le tenebrose parole di quel responso ed arrovellarcisi intorno. Finché il figlio di Prometeo, per rassicurare la figlia di Epimeteo, le dice con molta dolcezza: «O sono uno stupido, o l'oracolo è giusto e santo e non ci induce in obbrobri. La gran madre è la terra, immagino del suo corpo le ossa siano i sassi, e noi non dobbiamo che buttarceli dietro le spalle». La diagnosi del marito tocca Pirra Titania, però a sperare ancora faticano, talmente dei segni del cielo diffidano tutti e due. Però che si rischia a tentare? Vanno, si coprono il capo, si slaccian le vesti e, secondo il responso, ogni passo che fanno si gettano dietro una pietra. I sassi, se non l'attestassero gli antichi, impossibile crederci, cominciano a perdere la loro durezza, il loro rigore, ad ammorbidirsi e morbidi, ad assumere un'altra forma. Ecco che si sviluppano, ecco la loro natura ingentilirsi, ecco che vagamente intravedi la figura dell'uomo, quasi cavata appena dal marmo, non rifinita abbastanza, insomma a bozzi di statua. La parte di questi oggetti, intrisa di qualche umore e di terriccio, si presta a diventare carne. Quel che è rigido e non si piega si cambia in ossa. Le vene della pietra rimangono vene col nome. E in breve tempo, per volontà dei celesti, le pietre scagliate dalla mano del maschio divennero maschi e i lanci di donna provvidero a ripristinare le donne. Per questo siamo una razza dura e rotta al dolore e testimoniamo vivendo di che origine siamo. Gli altri animali li genera in forme assortite la terra appena la vampa del sole scalda gli umori residui, il caldo gonfia il fango e la melma delle paludi e i semi di tutte le cose, nutriti dall'ubertà del terreno, quasi in un grembo materno, con il passare del tempo sviluppano ognuno una sua propria figura. Così, quando il Nilo dà le sette bocche, abbandona i campi allagati al buon fine di ridursi nell'alveo di prima, e l'astro del firmamento ha seccato la mota recente, il contadino che vanga le zolle scopre un tripudio di animali, qualcuno perfetto nell'atto di nascere, altri ancora sprovvisti di organi e mal assemblati e a volte in un medesimo corpo nota una parte che vive, un'altra che è ancora terra disanimata. Tant'è, nel compenetrarsi, calore e umidità si fecondano e dalla coppia granisce il creato, e sebbene il fuoco sia nemico dell'acqua, a creare tutto è il vapore umido ed è una concordia discorde a propiziare le nascite. Quando dunque la terra melmosa per il diluvio recente, riarroventata dai raggi che le spiovono dall'alto, genera innumerevoli specie, in parte che fa? Riproduce vecchi disegni, ma in parte inventa creature mai viste. Non che volesse, ma pure te generò. Colossale pitone, serpente inaudito, terrore del popolo appena rinato, su tanto spazio di monte spadroneggiavi. L'arciere divino, che fino ad allora di armi del genere non si era servito, se non contro daini e caprioli che scappano, lo sommerse di frecce, fino a vuotar la faretra e a sversarne il veleno da mille ferite nere, uccidendolo. Perché poi il passare del tempo non cancellasse il ricordo dell'impresa, istituì e consacrò famosissime gare dette pitiche in nome di quel pitone abbattuto. E i giovani che con le braccia, le gambe o le ruote del carro avevan vinto ottenevano una corona di quercia. L'alloro non esisteva. Febo stesso serrava il fiotto dei capelli intorno alle tempie con una pianta qualsiasi. Primo amore di Febo fu Dafne di Peneo, passione dovuta non all'innocenza del caso, ma al cupo astio di amore. Il dio di Delo, superbo per la recente vittoria sul serpe, lo vede che tira il nervo per flettere l'arco. «Che ci fai, signorino, con quelle armi da grande? Pesano troppo», gli dice. «Quella è roba per me che so assestare colpi infallibili a belve e nemici, e ho appena crivellato di frecce il pitone, gonfio di veleno, che con la sua pancia schiacciava ettari e ettari. Contentati di attizzare col tuo fiaccolino gli amori che hai per mano, ma non misurarti con le mie glorie». E il figlio di Venere: «Febo, il tuo arco trafigga pur tutto e tutti, il mio trafiggerà te, perché di quanto i viventi valgono meno di un dio, di tanto tu vali meno di me». Detto, strappa l'aria col battito delle sue penne, finché non si posa all'ombra sulla cima del Monte Parnaso, e dalla sua faretra estrae due frecce di effetto opposto, che l'una scaccia l'amore, l'altra lo suscita. Quella che suscita amore è d'oro, aguzza e sfolgora in punta, l'altra è smussata e dentro l'asta è di piombo. Con questa trafigge la ninfa figlia di Peneo, con quella trapassa le ossa di Apollo fino a intaccarne il midollo. Lui si innamora di colpo. Lei scappa alla sola parola amore e nell'ombra dei boschi, emulando la casta sorella di Febo, si gode le spoglie delle belve che ha catturato. Un nastro le raccoglie il lungo arruffio dei capelli. La desideran tutti. Ma lei, ostile a chi la desidera, refrattaria all'uomo, si va a cacciare nel fitto dei boschi e non vuole saperne proprio di nozze, di amore, di abbracci. Il padre non fa che dirle: «Figlia mia, tu mi devi un genero», e dirle: «Un nipotino mi aspetto da te, figlia mia». E lei, che detesta le nozze come un'infamia, colora la bella faccia d'un verecondo rossore e, gettando le braccia al collo del padre, dolcissimamente gli dice: «Lasciami profittare di una eterna, padre adorato, verginità. non ha fatto così il papà di Diana. Lui cede, ma è il tuo fascino stesso a impedirti di fare come vuoi. Ai tuoi desideri osta la tua bellezza. Febo ama, vistala appena, smania a accoppiarsi con Daphne. La smania si fa illusione, la preveggenza una trappola. Come una volta mietuto si brucian le stoppie leggere. Come va a fuoco una siepe quando per distrazione un viandante le accosta una torcia o se la dimentica all'alba, così si incendia il Dio, così gli crepita il cuore e di speranza alimenta un amore senza speranza. Contempla i capelli che le si scapigliano sul collo e riflette: figurati tu se questa si pettina. Guarda occhi che brillano come stelle e quella bocca di baci, ma non gli basta guardarla. Stravede per quelle dita, per quelle mani, per quei polsi, per quelle braccia nude più che a metà, e si figura stupendo tutto quel che non vede. Lei fugge più rapida della brezza e parole così non la frenano. Ninfa, ti prego, fermati. Non ti bracca un nemico. Fermati, ninfa. L'agnella fugge il lupo, la cerva il leone. Le colombe con trepido volo si sottraggono all'aquila. Sì, ognuno fugge il nemico. Io, poverino, ti inseguo per amore. Purché tu non cada in avanti e ti graffino i rovi, quelle gambe innocenti, e che a farti del male sia proprio io. È pessimo il terreno dove corri, rallenta, ti supplico, la corsa, rallenterò anch'io, così almeno saprai chi è quello cui piaci tanto. Non un montanaro, non sono nemmeno un pastore ignorante di guardia a pecore e vacche. Non immagini, pazza che sei, tu nemmeno ti immagini chi fuggi e per questo lo fai. Io sono il signore di Delo, di Claro, di Tenedo e ancora del regno di Patara. Giove è mio padre. Sono io chi rivela il futuro, il passato e il presente. Sono sempre io chi accorda il canto alla cetra. Infallibili le mie frecce, ma più infallibile ancora quell'una che mi ha centrato a morte il deserto del cuore. La medicina è invenzione mia, tutto il mondo mi chiama il guaritore e controllo le varie virtù delle erbe. Povero me, che l'amore non si guarisce con l'erba e le arti che curano tutti non curano il loro dottore. E ben altro avrebbe da dirle, ma lei continua a scappare spaventata, piantandolo lì con la frase lasciata a metà, e bellissima da vedere. La denudano i venti che le soffiano incontro, trepidandole dentro la veste, mentre una brezza leggera le gonfia all'indietro i capelli. Più fugge, più è bella. Il giovane Dio non ha più la pazienza di sprecare fiato a sedurla e, sobillato da amore in persona, le pesta le impronte raddoppiando il ritmo di corsa. Come il levriero di Gallia che ha puntato in una radura una lepre e volano, lui per far preda, lei per salvarsi, lui certo di esserle addosso, anzi, contando di averla azzannata, la bracca a muso spianato, lei senza nemmeno sapere se lui l'ha già presa o no, si sottrae per un nulla ai morsi e alla bocca che ormai la tocca, così la Vergine e il Dio, trafelati lui di desiderio, lei di paura. L'inseguitore però, che vola sulle ali d'amore, è più rapido, non tira il fiato, ha preso alle spalle la fuggitiva, le ansima fra i capelli sparsi sul collo. Ecco, è pallida, pallida, stremata dalla fatica di correre tanto. Terra, dice, apriti, terra, e cambiami questa figura che tante molestie mi costa. Invoca le onde del Peneo, stremata dalla fatica. Aiutami, dice, se i fiumi han qualche potere. Papà, cambiami questa figura, piaccio troppo. per colpa sua. Non ha finito la supplica che un torpore le attarda le membra, una corteccia leggera le fodera i teneri seni, i capelli mutano in foglie, le braccia in rami, i piedi velocissimi un attimo fa si piantano in pigre radici, il viso è il ciuffo di un albero, non le resta che un vago splendore. Febo l'ama pure così, carezzandole il tronco, sente ancora sotto la nuova scorza un cuore che trepida, e stringendo fra le braccia rami che erano braccia, copre il legno di baci, ma il legno i baci ricusa. Allora il Dio, anche se non puoi essere la mia sposa, sarai, questo è certo, il mio albero. Tu fregerai per sempre questi capelli all'oro, questa cetra, questa faretra. E i generali latini, quando cori inneggeranno ai trionfi, e il Campidoglio vedrà sterminate parate, presidierai da un lato e dall'altro il portone di Augusto, montando fedele la guardia alla corona di Quercia. E se è giovane sempre il mio capo nel rigoglio dei suoi capelli, porta in perpetuo anche tu il vanto delle tue foglie. Ha parlato. Con le sue fronde novelle pare l'alloro annuisca, scuotendo la cima quasi fosse una testa. La seconda puntata delle Metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. L'ingegnere del suono è Matteo Bolzoni e ad alta voce che le ospita è un programma a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ricordiamo ancora che le Metamorfosi, che andranno in onda fino al 5 settembre, sono riascoltabili solo in streaming e solo per il periodo della messa in onda su adaltavoce.rai.it.